Chissà come si sente. Oddio, sto sentendo per la prima volta la mia voce in radio. Come ti senti? Ah, ma qua non eri mai venuta qua. Io non sono mai venuta. Cavoli, ero convinto che fossi già stata. No. Spaziale. Questo entra direttamente nella top di cose che faccio per la prima volta nel 2025. Wow, che meraviglia. Che bello. A me piace moltissimo fare le cose per la prima volta. Bello. Loro non ho capito cosa stanno facendo. Abbiamo sistemato. Ora vi sentiamo. Adesso possiamo salutare anche la Cinzia Corda, che è qui. Esisto. Con noi, che esiste. Questa volta non dalla parte. No, non dalla parte. Nope. Della co-conduzione, ma è qui con me in regia, okay, a combinare pasticci. Ma quando mai? Varie ed eventuali. E a dimenticarsi della musica di sottofondo. No, mai successo. Potevi farci frecciatina. Ma io ci arrivo prima o poi. No, prima magari voglio salutare gli ospiti. Esatto, no, beh, salutiamo gli ospiti. Senza interromperli. Esatto. Aspetta che mi ero spedito delle cose scritte prima. Ah, addirittura. Sì. No, in realtà sono dobbiamo mettere una sigletta, Lisa. Quella che si chiama Fuori porta. Esatto. Bellissima. L'ha fatta la Chiara Pergola, che salutiamo, che oggi ci sta ascoltando. Ciao Chiara. Da lontano. Perché fuori porta? Perché stiamo parlando di due mostre che non succedono a Bologna. Eh già. Dove? Esatto, una succede a Roma fra qualche giorno, infatti ti vedo bella carica, ed è Nicoletta, mentre invece l'altra, io fingo di leggere dal cellulare, in realtà c'ho un'app che non so che cosa sia. Poi tutta una serie di specifiche che sai solo tu alla fine, perché io non ti vedo. E l'altra invece ha già inaugurato da un po'. È già successa e succederà ancora, ha inaugurato l'11 ottobre a Castelvenere, vicino a Benevento, okay, e andrà avanti fino al 10 gennaio. Wow, e ci sei stato? Sì. Okay. Sei stato alla tua mostra, incredibile. Perché è una mostra personale, giusto? È una personale, è dentro una galleria che si chiama Mondo Romulo, arte contemporanea. E il titolo è Now I See You, Now You See Me, è a cura di Francesco Creta, con poi un testo aggiuntivo di Giulia Giacomelli, che oggi ci ha paccato. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Noi vogliamo bene Giulia. Noi la salutiamo tanto. Tanto ti salutiamo. No, ma tantissimo. No, ma è Tantone. Che è molto impegnata ultimamente. Ho visto. Capisco. Chi non la capisce, esatto. Insomma. hai capito. E invece tu che cosa combini? Tu, nel senso di Nicoletta. Io combino la mia prima mostra personale. Ah, wow. Quindi sento tipo di essere, diciamo, di stare uscendo dall'essere una matricola. Si può dire, nel settore artistico. Quindi faccio questa prima mostra personale che si chiama Riposare gli occhi. La faccio a Roma da Spazio Hangar. E a cura di Giulia Pontoriero, con la collaborazione di Gianluca Marion, sound designer, e Beatrice Bernini, che è un'attrice. Entrambi in realtà siamo appunto fuori Bologna, ma ne stiamo parlando Bologna perché, almeno nel mio caso, è stato molto concepito in realtà qui. Il concept della mostra è stato molto localizzato, studio, no? Non in questo studio, ma okay. No, male, molto male. A Coxo Spaziale succede di tutto, per cui insomma. Non sarebbe strano. Cioè, ecco. Per esempio, nel nostro spazio Coxo Temporale, dovete sapere, voi due che state in regia, sapere che Alessandro ha già fotografato Nicoletta. Ecco, e infatti veniamo già a un punto interessante che è. In realtà sia Alessandro che io. Che lui hanno già fotografato. Molto probabilmente. Ma noi l'abbiamo presentato il nostro ospite misterioso. Non abbiamo presentato e l'ospite in silenzioso. In quanto ospite misterioso. Un Giacomo silenzioso. Giacomo. Non sapremo mai il suo cognome. In tutti i modi, tipo, no, vabbè, se lo vogliamo dire. Salutare? Però ci vuole la sua liberatoria. È giusto. Se ci dà la liberatoria scritta. Per ora resta uno di quegli avatar tipo da sbloccare nei videogiochi, no? Tipo lo scopriremo. Prossimo livello. Esatto. Lo strumentopolo misterioso che ci servirà dopo, tipo. No, dicevamo che è assurdo come in realtà, senza farlo apposta, siamo stati invitati entrambi. I nostri progetti sono ovviamente separati, però sia Alessandro sapeva in molta anteprima del mio progetto a Roma di riposare gli occhi, sia io ho fatto parte del suo progetto Now I See You, Now You See Me. Ah, quindi c'è questo. Tu sei in mostra di là. Allora io non sono non realmente sei in mostra. Non ancora. Non ancora. Ah, perché qua è una cosa in divenire. Raccontate, raccontate. No, è in divenire perché in Now I See You e Now You See Me in realtà vengono messi in relazione e vengono messi insieme due progetti differenti nella personale. È stata un'idea del curatore di Francesco Creta. E uno è Closer, che è un progetto in realtà abbastanza vecchio del 2022, e l'altro è Power Corruption and Lies. Anche per quello poi ti ho portato il brano che spero che dopo mi metti. Certo. E quindi è una prima parte di un progetto più ampio dove ho inserito la parte, diciamo, un pochino più vecchia, quindi le foto che sono state prodotte tra il 2019 e il 2022, mentre le foto che ho fatto poi con Nicoletta sono state fatte molto più recentemente, e spero poi nel 2026 di finire il progetto e di poter poi esporre tutto il lavoro e la serie in modo completo, ecco. E sì, dovete aspettare ancora un attimo. Gli intrecci non finiscono qua, perché prima no. Now You See Me, per poi riposare gli occhi. Esatto. Ma infatti in realtà un'altra cosa secondo me interessantissima è che siamo entrambi a parlare in radio, che è appunto basato esclusivamente sull'udito, di due progetti che in realtà nascono dalla visività, per criticizzarla, per problematizzarla. E quindi c'è una connessione anche qui non volontaria. E quindi non so, ci pensavo anche sulla questione appunto dei titoli, come dicevi Lisa, no? Cioè, Now I See You, Now You See Me, e poi dall'altro lato invece c'è la mia personale, Riposare gli occhi, che è un po' l'obiezione, possiamo dire, la negazione del tuo titolo. No, certo, sì, ma perché tutti e due. Io soprattutto mi esprimo con la fotografia, tu usi anche altri linguaggi, però in questo caso usi la fotografia, ma in tutti e due c'è l'urgenza di interrogare il nostro modo di vedere, e tu lo fai e lo faccio poi anch'io un po' anche come resistenza, e per rendere l'immagine di nuovo anche un atto politico. E nel tuo caso immagino, da quello che ho letto, perché poi appunto ci siamo scambiati le cose, le cartelle c'è un lavoro che va anche un po' contro, tra virgolette, a questa sovrapproduzione di immagini che c'è adesso nel nostro tempo, nel nostro contemporaneo. Invece io cerco di rivedere il dialogo e il rapporto che c'è tra il soggetto e il fotografo, e come questa relazione non è di possesso, ma è veramente una relazione, è uno scambio. Quindi in realtà c'è resistenza in entrambi i progetti, e c'è di nuovo il fatto di rimettere l'immagine come messaggio anche politico. Nicoletta, quando l'hai detta la prima volta il titolo Riposare, ho pensato riposare nel senso di posare due volte, una seconda volta, invece poi riposare è inteso come appunto rilassare. Esatto. Riposo, può essere letto in entrambi i modi, o la mia primissima lettura non c'entra proprio nulla? No, in realtà sai che ci sto pensando per la prima volta in questo momento, appena hai fatto questa riflessione, perché in realtà il titolo nasce da una frase che diceva mio nonno, quando subito dopo aver finito di mangiare per fare la cosiddetta pennichella post pranzo, sacrosanta, esatto, andava a non dormire, andava a riposare gli occhi. E noi ovviamente ogni volta dicevamo sì, vabbè, vai a dormire, no? E lui no, io vado solo a riposare gli occhi, quindi vado a stendermi, mettermi in uno stato di inazione, di inattività. Gli occhi ce li ho effettivamente chiusi, ma io sono sveglio. E quindi in realtà mi piace questa connotazione del riposare come diciamo come doppio, come riflesso del posare, no? Sì. Perché in realtà, un po' come diceva anche Alessandro, cioè noi quotidianamente siamo assuefatti, c'è una saturazione a livello di immagini che sorbiamo quotidianamente, no? E questa cosa ci appesantisce tantissimo e fa sì che entriamo in un loop per cui tutto ciò che vediamo lo vediamo passivamente. Abbiamo una fruizione delle immagini come se fosse un all you can eat giapponese, cioè nel senso stai lì e ne fruisci attraverso lo zapping, lo scrolling o quel che sia, ma a un certo punto ti assuefai a un arrivi a un punto tale di assuefazione per cui non recepisci più realmente quello che stai vedendo. E secondo me, cioè, nella contemporaneità, l'arte, che ha sempre avuto come diciamo come baluardo quello di produrre le immagini, è stato sempre il capofila della produzione delle immagini, è molto a rischio, perché soprattutto poi quando diventa un contenuto social o un contenuto media in generale, mass media, social media che sia, rischia pesantemente di diventare un contenuto come un altro. E quindi noi guardiamo l'immagine della coppia di amici delle elementari che si è sposata esattamente come subito, cioè come dopo un attimo guardiamo anche Piero della Francesca o una partita di calcio. Esatto, o il reel di come si mettono le lasagne. Esatto, sì, esattamente come vediamo l'installation view di una mostra. Allora, cioè, che cosa differenzia? Diciamo che molto alla base anche del progetto di mostra c'è questo quesito: che cosa riesce davvero a differenziare un contenuto di tipo artistico da un'immagine come un'altra, da un contenuto come un altro? Perché appunto, dicevo, il rischio secondo me è molto elevato. Quindi da questo punto di vista è riposare, cioè posare di nuovo in una maniera diversa, più attenta, esatto, esatto. E infatti in realtà a me piace tanto l'idea un po' anarchica, un po' forse anche anacronistica, di fare questa mostra senza produrre immagini, senza avere installation view, senza nulla di nulla. In gran parte è già fatta così, è fatta per avere degli elementi, perché poi comunque la mostra è costituita da più media, ci sono degli interventi fotografici un po' particolari, diciamo, c'è un'installazione sonora, una performance e un video che mi piace definire video karaoke. Però sono tutti interventi dove davvero c'è davvero poco di instagrammabile. C'è molto poco di fotografabile, è un po' per il buio che ho voluto ricreare, insomma, un po' perché davvero sei un po' troppo intellettuale. Sì, lo vuoi so. Sfuggire ai social, alla un comunicazione? Sì. Qualcosa sì. Mi dice che la tua formazione non è stata proprio non è stata proprio una formazione pratica. Bensì molto, molto teorica. Comunque c'è Frigo Vuoto Specchio, che è il nuovo singolo degli Ada, l'ultimo capitolo del progetto prodotto da Sollo dei Gazebo Penguins. Un percorso che canzone dopo canzone ha raccontato la lotta per restare umani e che troverà il suo compimento il 21 novembre con l'uscita dell'album Sottovuoto per Pioggia Rossa Dischi. E dunque ringraziamo Maria di Per Press che ce l'ha segnalato, che ce l'ha mandato, e noi l'ascoltiamo. Play. Olè. Yeah. mal di testa? Eh no, io ho... è finita la musica? È finita la musica. Stiamo facendo una health check. Eravamo proprio sul pezzo, eravamo sul pezzissimo. No, io tutto bene, tu? Io meglio, grazie. Bene, mi fa piacere. Io non abbiamo musica di sottofondo. Ogni tanto no, mi sono arrivati dei messaggi che non c'entrano niente. invece abbiamo un cantore. Il nostro cantore personale. Ce l'abbiamo? Certo che ce l'abbiamo. Alle 7.17 di stamattina, veramente sì? Mattiniero. Buongiorno! Mazza! Che giorno è questa mattina? Quando mi sono svegliato e guardando vicino al letto non c'eri tu. Le coperte erano vuote, i cuscini volavano via giù dal letto. Senza te la vita non è più uguale. Da Marco Roma. Buongiorno! Lei se n'è andata, però senza lui mi sembra uguale. Molto contento. Buongiorno. Di questa cosa. Ma sta andando in negazione. Comunque alle 7.07. Lui alle 7.07 si è svegliato. Lei se n'era andata ed ha urlato lui era buongiorno. In auto, così. Però. No, è perché invece è successo invece che era stato mollato ed era un po' cupo. Era un po' giù di morale. Noi ci teniamo che lui sta sempre bene. Grazie Marco. No, lui manda i vocali tutti i giorni a Radio Città Fujiko. Belli, real. Esatto. Molto. Lo potete fare anche voi. Va bene. Al 333-180-94-94. Aspetta, mamma me lo segno. Esatto. Mamma lo segno. Nel mio taccuino. Nel tuo taccuino 333-180-94-94. Se volete se volete mandarci un vocale cantato, lo potete fare anche adesso. Oppure bello. Potete mandarci dei messaggi d'amore. Che preferisco la mattina presto. Per Nicoletta De Santo, che ha un sacco di fans in tutta la città. Addirittura. In tutta Italia. Mamma mia, così tanti fans che a Bologna non hanno fatto ancora niente. Esatto. Cioè, guarda un po', che coincidenza. Vabbè, ma c'è stato un problema di taglio di formaggi. C'è stato. Cioè, come giustifichi? Come quando vai, tipo, presenti un curriculum che vai a proporti per un posto di lavoro, ti dicono, è come puoi giustificare questo vuoto che c'è tra questa esperienza lavorativa e quest'altra e tu nel frattempo pensi a tutte le robe che hai fatto. Esatto. Ci ho fatto letteralmente di tutto. La Naspi? No, ma magari. Chi l'ha vista mai? No, però in effetti a Matteo Salvini nessuno rompe i coglioni per i suoi anni buchi. Di quando partecipava, no, lui non partecipava, rischia tutto, partecipava alla ruota della fortuna. Vabbè, i grandi classici. Le basi. Io tentavo di non ascoltarlo. Hai detto che la tua mostra continua fino a dicembre? 10 gennaio. Sono ben tre mesi di mostra. Credo di non aver mai fatto una cosa così lunga. Però sì, no, ci vuole tutto questo tempo sicuramente. Per fruirla. Tra l'altro sono 776.000 fotografie. No, non sono quante sono? No, non sono tante. Qualcuna anzi, di più, qualcuna di meno. Le abbiamo anche ridotte perché la galleria bellissima di Flavio Romualdo Garofano, che salutiamo, ci sta ascoltando, che conosco tra l'altro dai tempi del Dams, conosciuto qua a Bologna. Lui poi ha aperto la galleria a Castelvenere, per cui come al solito è tutto un magna magna. Esatto. Okay. E lo spazio è molto bello, ma comunque non aveva senso caricarlo di troppe immagini, quindi poi sono stampate, sono esposte proprio in modalità di poster, con anche le pieghe, come quei poster che trovavamo soprattutto magari chi ha un pochino più la mia età, trovavamo nei giornali tipo Cioè o la tua età tipo? Però, noi siamo del 96, esatto, anche tu sei del 98, comunque tu sei siamo del... così giovani. 81. 86. L'ha detto socchiudendo gli occhi chi non l'ha potuto vedere. Perché... ho detto adesso cita il Cioè, lo so. Cioè, no, ma si trovano anche adesso, sono contento che ve li ricordate. Comunque il poster è tirato fuori con le sue pieghe, quindi le foto sono stampate e poi piegate perché dovevano rimanere così. Ma chi le ha piegate? L'ho piegato un po' la mia ragazza, un po' il gallerista, un po' il curatore, perché comunque lavoro di gruppo. Bisogna dividersi i compiti, però le pieghe dovevano essere molto precise. Tra l'altro prima tu parlavi di instagrammare le mostre. Noi ci abbiamo provato in realtà, però essendoci comunque dei nudi, ovviamente siamo stati censurati, quindi di base poi non abbiamo instagrammato neanche noi. No, ma anche questa era fatta apposta per non Instagram. Esatto, è nata, vedi? È nata, sì, sì, sì, stiamo scoprendo due modi diversi, punti di contatto, assurdo. La censura ci ha completamente tagliati fuori da qualsiasi cosa, quindi... In maniera diversa, però, vedi, alla fine sono entrambe forse fruibili solo per chi ci viene. Sì, non so, quindi andate, andiamo. Andiamo, andate. Assolutamente. Noleggiamo un pulmino. Andiamo tutti insieme. Anche poi in realtà non sono neanche distantissime. No, Roma Castelvenere si non potrebbe è fare tipo una corsa Itabus per unire le due mostre. Perfetto. La realizziamo così. Radio Fujiko organizza? Organizza. Io porto l'autista. Perfetto. Abbiamo tutto. Prendiamo le adesioni, scrivete al 331 180 94 94. Facciamo un pulmino e via che si va. Beh, come a Roccaraso, era Roccaraso che erano andati. Esatto, una sì. Abbiamo bisogno di un influencer di, però esatto, in quel caso. Vabbè, la, Camilla, toccherà, dai. Toccherà avere Camilla Bruni. Che oggi chiediamo qua, a gran voce Camilla Bruni. Camilla? Ci sei? Non ci sta ascoltando. Incredibilmente non ci sta ascoltando. Scrivici. Al aveva detto che l'avrebbe fatto però, eh. Ha detto no, vi ascolto, sì, quindi... Vabbè, ha sempre molto da fare. Io continuo ad avere dei messaggi che non c'entrano niente con la trasmissione. Cosa abbiamo? Ce il li programma? Vuoi leggere? Bisogna mettere la full immersion, Stefano. Cosa allora abbiamo più o meno un minuto prima della pubblicità oppure New Order. Wow, ma durano di più i New Order di un minuto. Quindi andiamo con la pubblicità. Andiamo con la pubblicità un minuto prima, dai. Facciamo, facciamo questa anticipiamo. Cosa. Esatto. Sono Roberta Giallo e questo è Coxo Spaziale. Quindi eccoci. Beh, c'è c'è il nostro conduttore che come al solito si fa i cazzacci suoi. No, non c'è problema, prendiamo noi il controllo. Allora, controllate, ditegli qualcosa anche voi. Continuiamo noi. No, perché è una piaga ogni settimana sta cosa. No, perché c'è Agim Sacco che non solo non viene mai in radio dopo che lo invito, ma mi manda anche messaggi alle 20 e non ci ascolta. Dei vocali alle 20:25. Non ci ascolta. Ignaro che sto facendo la radio, capito? Per cui senti, sentiamo i suoi audio. Esatto. Potrei sentiamo anche fare questo numero qua. Non so, te la vuoi rischiare? Non so. No, c'è stato un periodo dove avevo scritto sul mio WhatsApp: non mandatemi degli audio perché altrimenti li mando. Bello. Però la gente mi ha ignorato, anzi secondo me me li mandava apposta per essere mitragliato e poi ma allora delusa che non li mettevo in radio, per cui non era una minaccia molto molto buona. Però bello sto pezzo in New Order, spaccano. Per chi è? Abbiamo detto che allora, scherzando ho detto per Sofia Coppola, ma no, era okay. era per tutti noi, era. No, a Giulia Giacomelli lo dedichiamo. Dichiamola Giulia Giacomelli. Continuano ad arrivare delle frecciatine. Lei non saprà mai perché non tra ascolterà mai. Probabilmente. Ma no, che ci ascolterà, dai. Anche perché domani su coxospaziale.blogspot.com la troverete registrata. Per se volete farvi male alle orecchie. Esatto. Tra l'altro forse ci stanno anche ascoltando le ragazze di Spazio Hangar a Roma. Mi che mi hanno detto, oh, ma mandaci il link che vi ascoltiamo. Ciao ragazze! Ciao ragazze, ciao Giulia, allora ciao Rihanna. Potete anche scriverci al 333-180-94-94 via SMS o anche WhatsApp. Se con un vocale. Qualcosa. Addirittura anche Telegram per quelli più... Questa credo sia la cosa più tecnologica presente da Città Fucina. I messaggi su Telegram. I messaggi su Telegram e WhatsApp. Sì, sì. Belli. E così. Di che chiacchieravamo? Abbiamo fatto il momento di silenzio. Sembrava che stesse partendo una domanda da parte tua, no? Io? Adesso io sei obbligata a farla, oddio. Allora, quali altre analogie trovate nei vostri percorsi, incontri e passati? Hai capito, cavoli, qua allora, è difficile la faccenda. Ma ne stavamo dicendo, stavamo dicendo la questione di Instagram prima, in differita, stavamo dicendo che purtroppo diciamo degli spoiler visivi della mostra di Alessandro sono stati ingiustamente bannati dal signor Instagram. In effetti un giorno ho visto la pubblicità della tua mostra con un capezzolo e ho detto adesso lo chiudo, è finita qui. C'erano più di un capezzolo, ma no, sono stati censurati, hanno bloccato per quasi un anno delle possibilità di postare al profilo della galleria, che sì, ovviamente è ridicolo, perché cioè, nel senso, parliamo, chi ha visto già dei lavori miei, sono comunque corpi totalmente deerotizzati, quindi non c'era assolutamente niente, ma ovviamente per Instagram questa cosa non è concepibile, e quindi ritorniamo anche lì, questa mostra che avrà poche visualizzazioni. Esatto. Io ho una domanda altra, scusate se posso. Vai, ce l'ho. Prego. Quando si parla di voler portare qualcuno ad una mostra, qualcuno anzi più di qualcuno, teoricamente non si deve far vedere tutto quanto online, ok? Nel momento in cui però abbiamo bisogno di pubblicità, bisogna far vedere online. Quanto è giusto far vedere, quanto è giusto nascondere, o come è giusto comunicare qualcosa che devi vedere dal vivo? Questa domanda ci vuole Fabiano Petrincone. Vai prima tu. Vai. Guarda, per come la vivo io, fosse per me, io non farei vedere niente. Ok, però come la comunichi e come porti le persone a conoscerla? Che mezzo useresti? No, secondo me la cosa migliore sarebbe passare dai canali, quelli un pochino più ufficiali, cioè secondo me tramite le riviste, newsletter o newsletter, comunque okay. Cioè, e chi è veramente interessato dovrebbe. Il problema è che, come sapete tutti, certo, c'è molta difficoltà a leggere i comunicati stampa, i fogli di sala, cioè già è molto difficile, quindi l'immagine e il racconto immediato arriva prima e la gente vuole vedere quello. Però secondo me pubblicare troppa roba, certo, prima della mostra non è mai positivo, ma vedo che ormai è superata. Ci sono le radio, per fortuna, qualcuno che racconta i progetti per... rispondo un attimo. Certo. Allora, io sono una zillennials, cioè sono a metà tra i millennials e la Gen Z. E quindi questo fa di me una persona che è nata, cresciuta con, cioè nata non proprio, però cresciuta sì con Instagram. E io Instagram lo utilizzo tantissimo, anche perché banalmente è stato per tantissimi anni il mio unico strumento per far conoscere le cose che facevo. Certo. Non avendo io una formazione accademica, ma avendo studiato cose di cui mi pento. No, non è vero. Ti stavamo seguendo, arrivata così. Avendo... Sì, io pensavo fossi serissima. Okay. Sono a metà tra l'essere metà, seria sempre, e lo scherzare. Quindi, sempre a metà. Vi lascio col dubbio. Dicevi. Vi lascio col dubbio. Però è così. Cioè, io non, quando ho deciso di inserirmi da un punto di vista pratico nel settore artistico, cioè nel settore dell'arte contemporanea, ovviamente non avevo nessun tipo di strumento altro che non fosse Instagram. È una banalità. Instagram in realtà è uno strumento fortissimo. E devo purtroppo dire grazie ad Instagram per tantissime opportunità che sono riuscita a cogliere, a scoprire ancora prima di cogliere, persone che ho conosciuto, la rete, infatti. Esatto. Cioè, la rete tramite i social si fa facilmente e velocemente. Assolutamente però... sì. Poi ovviamente è fallace così come è veloce, quindi ha un po' questa doppia faccia, che da un lato ha un'efficacia inaspettata anche a volte, dall'altro lato è un castello di carte che basta un soffio e viene giù. Quindi è difficile, anche io sono stata molto combattuta quando ho pattuito, diciamo, anche con Spazio Hangar come comunicare questa mostra, perché dicevo, tendenzialmente non ho prodotto immagini ancora, probabilmente ce ne saranno per gente che giustamente insomma verrà a vederla, anche se sarà comunque difficile, però io ero proprio per l'anarchia pura, anche un po' sulla scia di Alessandro, tipo no, ma cioè non facciamo vedere niente. niente. Cioè, io voglio, no, non voglio che qualcuno dica: ah sì, ho visto la mostra di Nicoletta, l'ho vista, vista su Instagram, Instagram. Certo. Ma no! Cioè... No, infatti stavo proprio pensando al fatto che, per esempio, la settimana scorsa ha inaugurato Fotoindustria. Esatto. E in effetti, cioè, la stiamo vedendo su Instagram. Sì. Infatti, sì. Probabilmente alcune di queste mostre non c'è neanche bisogno di andarle a vedere perché le abbiamo già viste. No, infatti io tra l'altro la maggior parte delle mostre di Bologna le guardo tramite il tuo profilo, Stefano. Influencer. In realtà è colpa tua, Stefano. Stefano. Tutta colpa. Sei sui social. Stefano cambia piano editoriale. Grazie. No, vabbè, ma cioè, se volete la smetto. No. Anche se in realtà dobbiamo è proprio arrivato quel momento. L'angolo della menzione. In cui appunto menzioniamo tutto quello che succede, cioè almeno un po' di quello che succede questa settimana, ovvero mercoledì 12 novembre alle ore 14:30, in occasione del centenario della nascita di Carlo Rambaldi, l'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita omaggio a Carlo Rambaldi nel centenario della nascita, abbastanza onomatopeico. L'appuntamento si inserisce nel progetto didattico Il mostro che è in me, che devo sottolineare è un titolo che non ho pensato io, malgrado siamo colleghi, promosso dalla scuola di scenografia, e offrirà l'occasione di ripercorrere la parabola di Rambaldi da Bologna a Los Angeles attraverso testimonianze, racconti e riflessioni sul suo contributo rivoluzionario al linguaggio del cinema contemporaneo. Intervengono Enrico Fornaroli, che salutiamo e a cui baciamo le mani, Giuseppe Lombardi e Simone Emiliani. Tutto questo all'Accademia di Belle Arti di Bologna in via Belle Arti 54 a Bologna. Giovedì 13 alle ore 15, il progetto Stage Screen Beyond Any Forms, a cura di Enrico Pitozzi, mira a creare un appuntamento annuale attraverso il quale valorizzare i materiali d'archivio delle arti dal vivo. Teatro, danza, performance e musica. Dopo la prima tappa del progetto, che ha avuto luogo l'anno scorso, la seconda in programma nella sala conferenze Mambo, Museo Morandi, dal 13 al 22 novembre, intende focalizzare l'attenzione su alcune figure centrali della sperimentazione scenica contemporanea, da Massimo Castri a Eimuntas Necrosius, passando per Gianni Colosimo, Danio Manfredini e la compagnia Lombardi di Tiezzi, figure che hanno segnato in modo indelebile le arti dal vivo. Giovedì, dopo la presentazione del progetto con Elena Di Gioia, Uliana Zanetti ed Enrico Pitozzi, ci sarà un dialogo tra l'artista Gianni Colosimo e Pasquale Fameli, gli accenti li ho tutti inventati, seguito dalla proiezione di L'Uomo di Cosenza di Gianni Colosimo del 1979. Il programma prosegue fino al 22 novembre e tutte le info si trovano sul sito del Mambo, nella sala conferenze del Mambo, via Don Minzoni 14 a Bologna. Ah no, prego con la lettura. non guardatemi nemmeno. Novembre alle 11:30 per Art in Transition, le arti tra sostenibilità ambientale e innovazione digitale, all'Accademia di Belle Arti di Bologna abbiamo l'incontro con Thomas Saraceno, artista e architetto argentino, non so come si pronuncia, che lavora tra arte, scienza e sostenibilità, proponendo visioni alternative per un futuro più etico e interconnesso. Le sue installazioni coinvolgono elementi non umani come ragni, piante, polvere e api, in un invito a ripensare la relazione tra specie e ambienti. Fondatore del progetto Aerocene e Arachnofilia, ha esposto nei maggiori musei internazionali e partecipato a biennali e forum globali. Tutto questo all'Accademia di Belle Arti di Bologna, poco dopo il Collegio dei Docenti, in via Belle Arti 54 a Bologna. Sabato 15 novembre, dalle 17 alle 21, Labs Contemporary Art ospita Palmo Panorama, mostra personale di Marco Emanuele a cura di Saverio Verini. Tutto ciò al Labs Contemporary Art in via Santo Stefano 38. Sempre sabato alle 17:30 la nostra meravigliosa Antonella Cinelli presenta Non perdiamoci di vista, 16 giovani artiste riflettono sul tema della violenza di genere, a cura di Antonella Cinelli, con testi e presentazione di Claudia Gerardi. Tutto questo è a Bentivoglio, in provincia di Bologna, al Palazzo Rosso, in via Marconi 5. chiudo io, Lisa? Chiudi tu. Chiudi. Lunedì 17 alle ore 17, quindi andiamo sulla prossima settimana. Mm-hmm. Per Arti in Transition, le arti tra sostenibilità ambientale e innovazione digitale, all'Accademia di Belle Arti di Bologna incontro con Caretto Spagna. Andrea Caretto e Raffaella Spagna sono attivi dal 2002 e pionieri dell'arte ecologica. Il duo lavora con materiali naturali e processi collaborativi, esplorando le relazioni tra uomo, ambiente e materia. Le loro opere indagano trasformazioni del paesaggio e processi di domesticazione. Collaborano con università e istituzioni artistiche e sono tra i fondatori della Fondazione Piampicollo Selvatico e dell'Associazione Diogene di Torino. Tutto ciò, Accademia di Belle Arti di Bologna, via delle Belle Arti 54. Che se ancora non lo sapete, l'indirizzo dell'Accademia di Belle Arti. Così, ripetita Juventus così. Ah, oh, succede sempre tutto lì, non so perché. Chissà. Ma chissà perché, non so. Non mi viene in mente nessun motivo. Neanche a me. Il centenario di Rambaldi, gli effetti speciali di E.T., Rambaldi, caro bello. Vabbè, scusate, andiamo avanti. Comunque abbiamo più o meno una decina di minuti. Una decina di minuti. Dove Giacomo ci canterà una canzone. Ci canterà un po' di sé. Un po' di sé. Talking English. I don't know. Right now. È un ospite international. Non l'abbiamo detto questo. Abbiamo detto solo il suo nome, ma nessuno sa. No, io invece volevo invitarvi davvero ad andare a vedere il video del 1979 di Gianni Colosimo, perché Gianni Colosimo è un soggetto veramente che merita, che aveva partecipato alla settimana della performance di Barilli alla seconda edizione. Ed è, l'ho conosciuto a Torino ed è un personaggio notevole, per cui io ci sarò ad ascoltarlo insieme a, ascoltare la sua intervista con Pasquale Fameli, ma sono super curioso di vedere appunto l'uomo di Cosenza, perché è lui l'uomo di Cosenza. è lui l'uomo di Cosenza che appunto chissà che cazzo combinava nel 1979, perché poi ha aperto una galleria, un negozio di libri, ha fatto di tutto quell'uomo, è anche stato copiato. La storia è lunghissima, me la faccio raccontare da lui, poi la metto in radio una di queste volte. È stato anche registra, il presidente, poi scegli uno consiglio. No. No, quasi. Il presidente della regione Calabria. Comunque, sì. Mentre sentivamo un po' di accenti sbagliati, pubblicità, eccetera, eccetera, e mi è venuto in mente in realtà un altro punto di contatto con Alessandro. Vedi che, allora. Cioè, secondo me, se questa trasmissione durasse altre due ore, continuerebbero a venirmi in mente punti di contatto con la mostra di Alessandro. E che un'opera della mia mostra è la location delle tue fotografie. Questo è un colpo di scena. Sono entrambe in contesti, diciamo, appunto, hanno una location molto intima, casalinga, diciamo. Cioè, casalinga, ho detto così, insomma, un po'. Però è una location intima, perché le fotografie che tu hai scattato le hai scattate comunque innanzitutto all'interno di casa tua. Sì, sì, esatto, nello spazio di casa. No, è vero, ma l'avevo intuito subito che l'intimità poteva essere anche una connessione. Infatti poi mi ero preso un sacco di appunti, perché in realtà ne ho trovate tantissime mentre ci ragionavo. E appunto una di queste era l'intimità, e poi avevo trovato anche il fatto che entrambi in modo diverso costringiamo lo spettatore a trasformarsi in una parte attiva, perché comunque, cioè, non sono immagini immediate, nel tuo caso deve anche cercare questo lavoro che è più emotivo e di critica verso l'immagine, nel mio caso è l'immagine che cerca di invadere e di guardare, di creare un cortocircuito tra l'osservatore e chi che viene guardato da questi poster. Quindi in realtà sì, è vero, possiamo aspettare anche la trasmissione che c'è dopo, Panta 80, e parlarne all'infinito, no? È vero, ma è una cosa molto bella, sono d'accordo. E infatti in realtà c'è, cioè, tipo faccio un piccolo spoiler, visto che non lo posso fare da un punto di vista visivo comunicativo, lo faccio da un punto di vista, diciamo, narrativo, dello storytelling. Esatto. Come sai fare tu? E, una delle opere che porto, cioè che sono lì in mostra, saranno lì in mostra, che è in realtà quella che dà il titolo all'intera mostra, che è Riposare gli occhi, infatti è nato tutto da lì, è la riproposizione in quadrifonia all'interno di una stanza come questa in cui siamo adesso, dei rumori che io sentivo quando mi dovevo addormentare nella mia vecchia casa. Wow. Quindi con Gianluca, Marion, che avevamo fatto un lavoraccio di un anno, abbiamo registrato e campionato i rumori di ogni singola parete della mia vecchia camera. Bellissimo. In una fascia oraria in cui io solitamente mi addormento, quindi quella tra le 11 e l'una di notte, più o meno. E io ovviamente in quella casa ero lì già da 4 anni, quindi avevo imparato a memoria tutti i suoni che venivano, da dall'alto, dal basso, duravano, da fuori, esatto, dalla parete sinistra che confinava coi vicini piuttosto che da quella di destra che confinava con Bellissimo. La mia coinquilina, tutta questa roba qui. Quindi abbiamo fatto una mappatura, a me piace chiamarla in realtà una cartografia, della, che funge un po' anche da ninna nanna, se vogliamo, perché a un certo punto diventano familiari i suoni con cui ci addormentiamo in un posto. Certo. E l'abbiamo studiata in modo tale da riproporla in quadrifonia, quindi uno speaker, una cassa per ogni parete. Ogni speaker riproduce una parete della mia camera. Certo. La cosa interessante è stata che quando l'abbiamo realizzata, io non sapevo ancora che sarei stata poi sfrattata da quella casa, e quindi adesso quella registrazione, quella mappatura è tutto ciò che mi resta della mia vecchia camera. E poi vabbè, io poco nostalgica, devo dire, non ho assolutamente. No, capisco. Insomma, non so quali altri motivi vi servono per essere invogliate ad andare a vedere la sua mostra. Infatti. Direi ricordiamoci dov'è, come si chiama lo spazio? Allora, Spazio Hangar, via Ernesto Nathan, 4143, 41/43, a Roma, esatto. In che zona è, lo sappiamo? Allora, è sotto Trastevere, zona San Paolo, Trastevere, allora, un po' più a sud, insomma. Bisogna girare l'invito a Cesare Pietro Iusti, che ha lo studio che è stato qua non molto tempo fa. Ah beh, sì. Vedi? Quante cose si scoprono. Fra l'altro, Cesare Pietro Iusti, che come sai è un artista super concettuale, secondo me apprezzerebbe la tua mostra. Gli manderò l'invito io. Tra l'altro avevo fatto una masterclass con Balbi, ma tipo 3 anni fa, e lui l'aveva proprio aveva nominato proprio il progetto che Cesare aveva portato al Mambo, non so ancora poi quanti anni prima, perché poi ero appena arrivata a Bologna. Tu non eri ancora nata, erano tipo 5 anni fa. No, così era, un certo numero di cose. Era, certo, ah no, 2018 cose. Anzi. Non era, sì, non era. No. No. Una delle mostre più belle che si sono viste al nella Mambo? Sala delle Ciminiere, in assoluto. Sì, sì, sì. Ah, vedi, peccato non esserci stati, non conoscere ancora Bologna. Se ti capita, in realtà vai a sfogliare il catalogo della mostra, perché non è solo un catalogo della mostra, ma è un vero e proprio libro d'artista sulla carriera di Cesare Pietro Iusti. Ecco, è splendido. Il catalogo della mostra è un buon modo di rifruire delle mostre, perché è qualcosa che rimane, qualcosa di cartaceo, è qualcosa che secondo me è molto bello. Vero, anche io sono molto per l'analogico, mi piace il cartaceo, la tattilità. Secondo me noi, a furia di utilizzare il tatto solo sulla superficie liscia dell'iPhone, abbiamo perso proprio quella sensibilità. Sensibilità tattile. Sì. Beh, io no. E anche beh, vabbè. Anche per gli odori, perché la carta ha un suo odore. Ah no, sì, infatti, sì, no, infatti stavo per dire io no, perché insegno editoria d'arte. No, perché tra l'altro oggi stavo scansionando dei lavori dei miei studenti e uno aveva fatto una roba con del bitume che puzzava in maniera spaventosa. Però anche questa è memoria, perché anche le riviste, quando le prendiamo nuove, cioè creano dipendenza. Io le annuso, sto lì un sacco di tempo. Non è solo colpa del benzene che crea dipendenza, ma No. C'è anche un fattore emotivo. No, io sono d'accordissimo su questo, perché una delle cose che mi piaceva di più da bambino era fare costruire, non so se ve lo ricordate, questa enciclopedia americana che si chiamava, non mi ricordo, comunque si chiamava Fare e Costruire. Quando la aprivi aveva proprio questo inchiostro americano pustosissimo, che però aveva solo quella, cioè rispetto a tutte le altre. Sì, che caricavano di più di benzene. Esatto, esattamente. Per rendere più dipendenti dall'abbonamento Il titolo originale era Childcraft. Super. No, che bello. Che emozione, i social divertente. Non danno il profumo. E tu naturalmente dunque stai preparando il catalogo della mostra o l'hai già fatto? No, no il catalogo non c'è, ma mi piacerebbe invece sviluppare un libro proprio sul progetto specifico dei poster, quindi di Power Corruption Allies. Se i New Order non mi denunciano perché uso il titolo del disco, ma penso che si possa, dai. Sì, sì, anche perché loro a loro volta l'avevano preso da una citazione. Quindi no, in realtà vorrei finire il progetto e poi realizzare il catalogo, un libro su questo. Quindi sì, speriamo di riuscirci. Ottimo. Io invece avevo un desiderio rispetto alla questione catalogo e tutto, fare con Modo Info Shop una pubblicazione su questa mostra che fosse un libricino completamente nero, vuoto. Fine. Cioè proprio per così. Sì, basta. Fine, cioè beh, per far riposare gli occhi, allora uno deve guardare qualcosa, magari guarda il nero e potrei aprirti esatto, quando hai sei sopraffatto. Un intero capitolo sui punti di nero e sulle tonalità di nero, se che tipo di nero vuoi usare. Ah, cavolo. Ma secondo me costa poco stamparlo, quindi. Ah, può essere. Dipende inchiostro, tipo. Dipende se vuoi usare il nero in pasta, se usi quindi già il foglio nero. Cosa costa oppure di più in quadricromia. Stiamo entrando nel tecnico. Cioè, costa di più però sai che dipendenza poi non si sa. Ecco, vedi? Dipende anche da quante copie ne faresti di un libro del genere. Ah, non lo so, dipende dal budget. Ah, ok. E ognuno lo guarda. Dipende dal nero, e pensa ai suoi sogni d'ambiente. I tuoi sono quelli che si sentono alla mostra, i suoi sono quelli che sente mentre guarda. Esatto, anche perché non potresti fare altrimenti. Quindi, cioè, se lo sguardo è focalizzato su qualcosa che in realtà è dispersivo, cioè sembra un punto, ma in realtà è dispersivo. E io la cosa proprio che mi chiedevo quando ragionavo su tutto il progetto mostra era che cosa vorrei che arrivasse alla persona che partecipa. Certo. E io la verità è che voglio fare riposare le persone. Mi sa che ho capito questo. Sì. Non è male. Ma dobbiamo andare a riposarci anche noi. Ci riposiamo. Anche perché ci sono gli amici di Panta 80 che scalpitano entrare in studio. Giustamente. E dunque, si ringraziamo intanto i nostri ospiti. Nicoletta De Santoli, Alessandro Trapezio e anche l'ospite misterioso. Questo misterioso Giacomo che ci parla in inglese. Noi vi aspettiamo la prossima settimana. Io ero Lisa Mignemi. Io ero Cinzia Corda. Io Stefano W. Pasquini. E questa era Coxo Spaziale. Come al solito vi salutiamo con le parole del nostro direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.